Capitolo 27. Isacco era invecchiato e i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più. Allora egli chiamò Esaù, suo figlio maggiore, e gli disse: «Figlio mio». Quello rispose: «Eccomi». E Isacco: «Ecco, io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Ora prendi, ti prego, le tue armi, le tue frecce e il tuo arco. Vai fuori nei campi e prendimi un po' di selvaggina. Poi preparami una pietanza saporita di quelle che mi piacciono. Portamela, perché io la mangi e ti benedica prima che io muoia». Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco parlava a suo figlio Esaù. Ed Esaù se ne andò nei campi per cacciare della selvaggina e portarla a suo padre. Rebecca parlò a suo figlio Giacobbe e gli disse: «Ho udito tuo padre che parlava con tuo fratello Esaù, e gli diceva: portami un po' di selvaggina e fammi una pietanza saporita, perché io la mangi e ti benedica davanti al Signore prima che io muoia. Ora, figlio mio, ubbidisci alla mia voce e fai quello che ti comando. Va al gregge e prendimi due buoni capretti, e io ne farò una pietanza saporita per tuo padre di quelle che gli piacciono. Tu la porterai a tuo padre perché la mangi e così ti benedica prima che egli muoia». Giacobbe disse a Rebecca, a sua madre: «Mio fratello Esaù è peloso e io no. Può darsi che mio padre mi tasti e mi consideri un impostore e mi attirerò addosso una maledizione invece di una benedizione». Sua madre gli rispose: «Questa maledizione ricada su di me, figlio mio. Ubbidisci pure alla mia voce e vai a prendermi i capretti». Egli dunque andò a prenderli e li portò a sua madre, e sua madre ne preparò una pietanza saporita di quelle che piacevano al padre di lui. Poi Rebecca prese i più bei vestiti di Esaù, suo figlio maggiore, i quali erano in casa presso di lei, e li fece indossare a Giacobbe, suo figlio minore. Con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo, che erano senza peli. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe la pietanza saporita e il pane che aveva preparato. Egli andò da suo padre e gli disse: «Padre mio». Isacco rispose: «Eccomi. Chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe disse a suo padre: «Sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai detto. Alzati, ti prego, mettiti a sedere e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse a suo figlio: «Come hai fatto a trovarne così presto, figlio mio?» E quello rispose: «Perché il Signore, il tuo Dio, l'ha fatta venire sulla mia via». Allora Isacco disse a Giacobbe: «Avvicinati, figlio mio, e lascia che io ti tasti, per sapere se sei proprio mio figlio Esaù o no». Giacobbe s'avvicinò a suo padre Isacco, e come questi lo ebbe tastato, disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esaù». Non lo riconobbe, perché le sue mani erano pelose come le mani di suo fratello Esaù, e lo benedisse. Disse: «Tu sei proprio mio figlio Esaù?» Egli rispose: «Sì». E Isacco gli disse: «Portami da mangiare la selvaggina di mio figlio, e io ti benedirò». Giacobbe gliene servì, e Isacco mangiò. Giacobbe gli portò anche del vino, ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Ora avvicinati e baciami, figlio mio». Egli s'avvicinò e lo baciò. E Isacco sentì l'odore dei vestiti e lo benedisse dicendo: «Ecco, l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda la rugiada del cielo, la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni si inchinino davanti a te. sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre s'inchinino davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledice, benedetto sia chiunque ti benedice. Appena Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe se ne fu andato dalla presenza di suo padre Isacco, Esaù, suo fratello, giunse dalla caccia. Anch'egli preparò una pietanza assaporita, la portò a suo padre e gli disse: «Si alzi, mio padre, e mangi della selvaggina di suo figlio, perché mi benedica». Suo padre Isacco gli disse: «Chi sei tu?» Ed egli rispose: «Sono Esaù, tuo figlio primogenito». Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse: «E allora, chi è colui che ha preso della selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, e l'ho benedetto, e benedetto egli sarà». Quando Esaù udì le parole di suo padre, emise un grido forte e amarissimo. Poi disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Isacco rispose: «Tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione». Ed Esaù: «Non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe? Mi ha già soppiantato due volte. Mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione». Poi aggiunse: «Non hai serbato qualche benedizione per me?» Isacco rispose e disse a Esaù: «Io l'ho costituito tuo padrone. Gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi e l'ho provveduto di frumento e di vino. Che potrei dunque fare per te, figlio mio?» Allora Esaù disse a suo padre: «Hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio». Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Suo padre Isacco rispose e gli disse: «Ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello, ma avverrà che, conducendo una vita errante, tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo». Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione datagli da suo padre e disse in cuor suo: «I giorni del lutto di mio padre si avvicinano. Allora ucciderò mio fratello Giacobbe». Furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, e lei mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi e ucciderti. Ora, figlio mio, ubbidisci alla mia voce. Levati e fuggi a Caran, da mio fratello Labano. Rimani laggiù, finché il furore di tuo fratello sia passato, finché l'ira di tuo fratello si sia stornata da te ed egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto. Allora io manderò a farti ritornare da laggiù. Perché dovrei essere privata di voi due in uno stesso giorno?» Rebecca disse a Isacco: Sono disgustata a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende in moglie tra le ittite, tra gli abitanti del paese, una come quelle, che mi giova la vita?